cercando un modo per cancellare dentro me l'amarezza degli sbagli miei, gli insuccessi nei confronti tuoi. Che non c'è un fantasma attorno a me, l'universo senza noi sarà freddo più che mai. Basta sculettare e ridere.